l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Questo è Darwin. Ciao Chiara. Ciao Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo del cielo. Il cielo di tutti è l'ultimo saggio scritto da Patrizia Caraveo, edito da Dedalo. Patrizia Caraveo è dirigente di ricerca della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e oggi è qui con noi. Benvenuta Patrizia. Saluti a tutti. Nelle prime pagine del suo saggio lei scrive che a New York ormai è difficile vedere la Luna. Siamo proprio messi male. Fortunatamente non tutto il mondo è simile a New York e ovviamente stiamo parlando proprio di Manhattan, dei posti più illuminati con un maggior numero di insegne pubblicitarie. Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, per esempio, dicono che la famosa via di Las Vegas, quella che si chiama The Strip, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio. È proprio uno dei loro punti di riferimento perché nel mezzo di una zona degli Stati Uniti che non è illuminatissima, si vede questa diagonale straordinariamente brillante e appunto si vedono dallo spazio. Caraveo, c'è una fotografia impressionante sempre nel suo saggio, si vede una porzione ampia di montagne, una porzione ripresa a una certa distanza. Direi che questa striscia di montagne potrebbe essere una decina di chilometri e sono illuminate molto più di quanto a Roma si illumina il Colosseo o Piazza San Pietro, e questa è effettivamente una follia. Assolutamente, stiamo pensando a una nazione come la Svizzera che ha fatto, io spero che questo sia stata una trovata che poi hanno dimenticato, perché è veramente assurdo sprecare energia per illuminare a giorno le montagne riuscendo a impedire alla gente che magari è andata in montagna per godere della visione del cielo di vedere le stelle, e allo stesso modo disturbando anche tutti gli animali. Certo, l'inquinamento luminoso ci permette di non vedere proprio le stelle e riusciamo a capire quante sono le stelle che non vediamo per via dell'inquinamento ma anche per via della distanza. Sappiamo quello che ci perdiamo? Certamente sappiamo quello che ci perdiamo, perché quando riusciamo ad andare in un posto buio molto lontano dalle luci delle città, vediamo che il cielo è pieno di stelle. Magari anche con degli occhi speciali, dei telescopi particolari. La fruizione del cielo è possibile in molti modi. La prima fruizione è a occhio nudo. A occhio nudo si dovrebbero vedere diverse migliaia di stelle, però il cielo deve essere buio. Poi ovviamente se uno ha un binocolo, un telescopio, può vedere di più, può vedere oggetti meno brillanti, ma attenzione che a quel punto più noi siamo, diciamo, sensibili e quindi siamo capaci di vedere oggetti meno brillanti, più siamo colpiti dalla questa luminescenza diffusa del cielo, perché le luci delle città, delle strade, dei parcheggi, anche nel caso siano doverosamente rivolte solo verso il basso, poi vengono in piccola parte riflesse da ciò che illuminano, e questa luce riflessa poi viene diffusa dall'aerosol dell'atmosfera. Ragion per cui se uno va per esempio in Val d'Aosta, si arrampica sulle montagne per vedere il cielo e guarda verso sud, a un certo punto vede benissimo l'alone di Torino, che è a più di 100 km di distanza, proprio perché la luce non dà fastidio solo localmente, ma dà fastidio in un vasto raggio d'azione, che è la ragione per la quale gli astronomi, che del buio hanno bisogno, si devono arroccare su alte montagne per cercare di essere il più lontano possibile dalle sorgenti di inquinamento luminoso. Però gli astronomi si sono accorti che non sono completamente al sicuro, perché, ahimè, sta crescendo la popolazione di satelliti che vengono messi in orbita in gran numero e, ahimè, questi satelliti danno molto fastidio agli astronomi perché sono molto brillanti e quando sulla Terra è già buio, i satelliti in orbita vengono ancora colpiti dal Sole, riflettono la luce del Sole e reca molto disturbo all'astronomia. C'è un passaggio interessante nel suo saggio nel quale c'è un confronto, si fanno delle valutazioni economiche su piano planetario con i dati sulla illuminazione e ci sono coincidenze abbastanza se non molto precise. Ma sì, perché l'illuminazione è direttamente proporzionale al numero di abitanti e alla ricchezza media di questi abitanti, perché dove c'è molta gente che ha un buon tenore di vita, l'illuminazione esce subito di controllo, mentre nelle mappe della Terra di notte si vede benissimo la differenza tra le città dell'Africa che sono praticamente buie e le città dell'Europa, del Giappone, della Cina, che sono brillantissime. Quindi l'illuminazione, così come l'emissione di anidride carbonica, sono, ahimè, direttamente proporzionali al benessere delle nazioni. Grazie Patrizia Caraveo, davvero buon lavoro e buona ricerca. Grazie a voi. Per arrivare una legge per la quale chi vuole produrre energia da solo potrà farlo, con la differenza che una famiglia potrà farlo nella propria casa, ad esempio, ma anche un intero condominio potrà farlo. Ma anche, udite udite, un paese intero. Stiamo per parlarvi delle comunità energetiche e lo facciamo con Mario Gamberale, che è amministratore delegato di Novatech Power, che è proprio una società che si occupa di sostenibilità ambientale e promuove proprio l'aggregazione di queste comunità energetiche. Intanto benvenuto Gamberale. Un saluto a tutti. Partirei col descrivere che cosa sono queste comunità energetiche. Certo, una comunità energetica è un insieme di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di consumatori che decidono di scambiare l'energia elettrica prodotta dall'impianto e quindi beneficiare di una produzione da fonte rinnovabile e degli incentivi che lo Stato ha deciso di introdurre. Il concetto di comunità è nata con una direttiva comunitaria del 2018 che dovrà diventare legge entro il 2021, ma in Italia è partita una fase sperimentale già dal mese di febbraio. Io mi sono lanciato prima perché stavamo dicendo un condominio è un tipico esempio di quello che potrebbe essere una comunità ambientale, però si può pensare anche che un piccolo paese, insomma, magari neanche tanto piccolo, possa diventarlo. Assolutamente sì, la direttiva comunitaria non dà limiti alla comunità energetica, quindi potremmo parlare anche di comunità su scala comunale o provinciale addirittura. Col decreto del febbraio scorso il governo, proprio per cercare di avviare una fase sperimentale e testare tutte le possibilità di realizzazione di queste comunità, ha introdotto un primo step di comunità energetica per impianti fino a 200 kW di potenza fotovoltaica, quindi sicuramente una taglia più da condominio che da comune, che però servirà per iniziare a testare il funzionamento di questa novità che già esiste in alcuni paesi europei, in particolare in Germania. Ecco, quindi dice in particolare da fonte rinnovabile e in Italia tipicamente possiamo pensarlo per il fotovoltaico e per l'eolico. Sì, diciamo che per tutte le rinnovabili la direttiva RED prevede lo schema. Fino ad oggi queste tecnologie potevano essere realizzate soltanto per autoconsumo o per vendere energia elettrica in rete o al più a un vicino di casa, quindi l'impianto aveva questi tre schemi alternativi. Domani con la comunità si potrà sostanzialmente scambiare liberamente tra tutti i soggetti coinvolti da questo gruppo. Vantaggio In che cosa consiste? Beh, mi pare di capire che il primo grosso vantaggio è che, essendoci dei ritorni economici, dovrebbe svilupparsi molto l'utilizzo dell'energetico alternativo. Sì, il decreto prevede un incentivo che premierà la quantità di energia elettrica prodotta da questi impianti quando questa energia prodotta è contemporanea al consumo da parte di tutti i membri della comunità energetica. Quindi ragionevolmente stimolerà la diffusione di fotovoltaico eolico, ma soprattutto il fotovoltaico, che è la tecnologia per elezione più semplice da realizzare in ambito urbano, e soprattutto la diffusione dei sistemi di accumulo collegati agli impianti fotovoltaici, che consentono di accumulare l'energia elettrica prodotta e restituirla nei momenti di necessità, e quindi consentire alle reti di essere regolate e non avere sbilanciamenti che oggi purtroppo con le fonti rinnovabili capitano, per non essendo la fonte programmabile. Ecco, in pratica poi come funzionerà? Ad esempio, io in questo momento potrei acquistare, diciamo, usufruire soltanto dell'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, ad esempio, del mio vicino di casa. Invece con questa normativa potrò prenderla dal mio condominio o addirittura dal mio piccolo paese, però in che modo potrò usufruire di questa energia? Tutti i soggetti interessati, cittadini, imprese, anche enti locali, dovranno costituire una comunità energetica, che di fatto sarà un soggetto giuridico analogo a quello che potrebbe essere una cooperativa energetica o un'associazione, quindi avere uno statuto e delle regole che disciplinino i rapporti tra la produzione e il consumo dell'energia elettrica. Nomineranno un coordinatore, che sarà colui che si interfaccerà con lo Stato e col GSE. Avranno al loro interno dei produttori di energia elettrica. Questi impianti di produzione potranno essere di proprietà collettiva o di proprietà di un singolo, e il produttore riceverà dal gestore del servizio elettrico un incentivo sotto forma di tariffa, come se fosse una tariffa elettrica, che ripartirà tra i membri della comunità secondo le regole che la comunità stessa si sarà data. Senta Mario Gamberale, la prospettiva è decisamente interessante, però per metterla in campo ci sono dei passaggi formali, degli aspetti burocratici. Dov'è che chi ci ascolta può andare a trovare una descrizione nel dettaglio delle procedure da attivare per questa scelta? Allora, il decreto che ha introdotto questa fase sperimentale è il decreto ministeriale del 28 febbraio 2020, che prevede due strumenti attuativi: una delibera dell'ARERA, che è l'autorità regolatrice del sistema elettrico, e un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilirà il valore dell'incentivo. Questi decreti verranno pubblicati, e lo dico, diciamo, con sostanziale certezza, perché sono agganciati al decreto rilancio che sta introducendo il super bonus per la detrazione fiscale in edilizia, perché nel decreto rilancio il governo opportunamente ha introdotto la cumulabilità con gli incentivi della comunità energetica. In pratica, un cittadino che oggi volesse realizzare un impianto fotovoltaico con il credito d'imposta del 110% potrà farlo, ottenere l'incentivo, e per tutta l'energia scambiata all'interno di una comunità ottenere l'incentivo del GSE. Sì, quindi bisogna aspettare proprio ancora pochissimo per poterne usufruire, diciamo, non manca molto, ecco. Va bene, grazie Gamberale, davvero un buonissimo lavoro allora per i prossimi mesi. Grazie a tutti. Va bene Chiara, direi che è tutto molto interessante e Darwin finisce qui oggi. E noi vi aspettiamo qui per una nuova puntata. Siamo qui, tutte le altre puntate le trovate in podcast sul sito di Radio 24. Ciao Federico, ciao a tutti. Un saluto a tutte e a tutti. Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.